frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. E un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Oggi è il 30 aprile e chissà, qualcuno di voi magari sta facendo il ponte del primo maggio, qualcuno no, ma sicuramente questa nuova aria di primavera, questo sole, questo caldo improvviso e questi ponti ci fanno pensare a dei momenti un po' più lunghi di relax, quindi molti di noi sono già proiettati verso le vacanze e proprio il tema della vacanza sarà ciò di cui parleremo in questa puntata. Oggi in studio siamo le solite due, ormai mi viene da dire, ci sono io che sono Mari e qua vicino a me c'è Viviana. E sì Mari, perché qui a Bologna ci sono 27 gradi e quindi la voglia di partire, di fare un viaggio è proprio grande. Sì, è veramente molto molto grande e oggi parleremo di viaggio però da una prospettiva un po' particolare, come siamo solite fare noi. Oggi parleremo di donne che viaggiano da sole e per farlo ci piace lasciare la parola a loro, perché alcune delle nostre ascoltatrici ci hanno mandato qualche contributo per raccontarci che cosa è stato per loro il viaggiare da sole, e quindi la parola a loro. Salve a tutte, salve a tutti, io sono Laura e nel corso degli anni ho scoperto che una delle cose che più mi riequilibra e mi ricentra quando sono un po' storta è il viaggiare, e viaggiare da sola soprattutto. Ho incominciato a 30 anni, dopo tanti viaggi in giro per il mondo, sempre in compagnia, e sentivo però il bisogno un po' di fare da sola, di mettermi alla prova e di concedermi il diritto un po' di stupirmi e di essere fiera di me stessa e di come sapevo gestire le più diverse situazioni. E così mi sono un po' messa alla prova contro i vari preconcetti che questa scelta porta con sé, da va via da sola perché non ha nessuno, a questa se la va a cercare, tutte le cattiverie più svariate che una mente può concepire. E i primi giorni li ho passati senza parlare con anima viva, ho passato momenti in silenzio e poi pian piano ho scelto con cura di chi fidarmi o meno, i luoghi in cui non avevo percezione di pericolo e quant'altro. Il risultato è stato ottimo, ho conosciuto un sacco di belle persone interessanti e una Laura che non ha paura ma si fida del suo senso critico e del suo intuito, e che soprattutto sa trovare un secondo autobus nel caso perda il primo. Ciao, un buon pomeriggio a tutti. Viaggiare da sola è il più grande regalo che ci si possa fare, è qualcosa che ti fa scoppiare il cuore di felicità e di paura allo stesso tempo, dopo che hai realizzato di aver comprato un biglietto per un volo, un treno, una direzione che percorrerai da sola. È una grandissima opportunità di entrare in contatto con te stessa, di scoprire anche quali sono i tuoi tempi, senza mediazione, senza negoziazione, senza compromessi con nessuno. È un mettersi alla prova, perché sicuramente ci saranno dei momenti di difficoltà che sicuramente verranno superati, e dopo che ti sei resa conto di averli superati, questa cosa ti fortifica, ti rende più forte. Viaggiare da sola è, per citare il grande Walter Bonatti, grande alpinista, è viversi intensamente, è qualcosa che per piccoli o per lunghi viaggi io consiglio a chiunque. Ho viaggiato da sola nel 2013 in Sud America per 3 mesi. Avevo 33 anni quindi. Uno degli aspetti positivi del viaggiare da sola in quanto donna è stato che, viaggiando con il couchsurfing, era molto più facile trovare ospitalità, essendo io donna, piuttosto che se fossi stata uomo. Ma invece un aspetto negativo è stato che quasi tutti, tranne una, uomini, davano per scontato che, avendo io scelto il loro profilo, cioè avendo chiesto loro ospitalità, fossi in un qualche modo anche interessata a loro sessualmente. Quindi chiedevano, o comunque speravano vivamente, che in cambio di ospitalità ci fosse qualcos'altro. Un altro aspetto del viaggiare da sole e del farlo in quanto donna positivo è che, nel momento in cui incontri un'altra donna che sta viaggiando da sola, nasce subito una grande intesa. Invece un aspetto negativo è indubbiamente che ti trovi a doverti giustificare spesso e volentieri con altre persone di qualsiasi sesso che non stanno viaggiando da sole, chiaramente, del perché tu stai viaggiando da sola. E sono sicura che a un uomo che viaggia da solo questa domanda non viene mai fatta. Viaggio da sola quando ho voglia di seguire il mio ritmo e i miei tempi senza scendere a compromessi, sia nell'organizzazione che nel corso del viaggio. E viaggiare da sola cambia il modo in cui vivo il rapporto con il luogo in cui sono. Lo rende più intenso perché non ci sono interferenze e dà modo di assaporare con calma tutte le sensazioni. Mi mette a confronto solo con i miei limiti e le mie paure e mi restituisce un estremo senso di libertà. E alla fine superare lo spaesamento e arrivare a sentirsi a casa anche altrove è una conquista tutta personale. E dopo questi contributi molto suggestivi, andiamo a scoprire chi ci accompagnerà durante questa puntata. Parlo dei Blonde Redhead, un gruppo indie rock statunitense formatosi nel 1993 a New York e composto dalla giapponese Kazu Makino, voce e chitarra elettrica, e dai gemelli italiani Amedeo, voce e chitarra, e Simone Pace, batteria. Il gruppo raggiunge l'apice del proprio successo nel 2000 grazie alla pubblicazione di Melody of Certain Damage Lemons. Il disco ottiene apprezzamenti anche in Italia, paese d'origine dei fratelli Pace. Questo lavoro li porterà nei mesi seguenti ad accompagnare in tour gruppi come Red Hot Chili Peppers e Foo Fighters. I Blonde Redhead hanno progressivamente accresciuto la loro popolarità all'interno della scena musicale underground. Sebbene la musica degli esordi venisse spesso ritenuta troppo simile a quella dei Sonic Youth, i Blonde Redhead sono riusciti nel tempo a creare un loro stile personale ed efficace. I primi dischi del gruppo infatti sono caratterizzati da una forte componente noise rock. A partire dagli anni 2000 la band ha virato verso il dream pop e lo shoegaze. Kazu Makino è la voce del gruppo, è nota per la sua voce acuta e intensa, con la quale canta su eleganti riff di chitarra e complesse costruzioni ritmiche. E quindi andiamoci ad ascoltare la prima canzone, Hated Because of Great Qualities. Still guilty. Diamo adesso il benvenuto ad Anna Donato, che insieme a Elena Mazzeschi è cofondatrice del progetto Viaggio da Sola Perché. Benvenuta, Dana. Grazie mille, ciao, grazie di avermi invitata a parlare per voi. È un grande piacere per noi perché appunto il tema del viaggio legato alle donne, quindi in particolare le donne che viaggiano, ma nello specifico le donne che viaggiano da sole, sicuramente è un tema e una questione che sicuramente solletica molte donne, ma allo stesso tempo genera anche molte inquietudini, paure, cioè un desiderio di provare, ma tante paure che magari trattengono. E quindi, insomma, abbiamo pensato a voi perché siete appunto autrici di un progetto. Blogger. E quindi ci siamo dette, ma perché non costruiamo una rete di donne che viaggiano da sole in cui tutte le ragazze possano dare dei consigli, ricevere dei consigli e raccontare soprattutto la propria storia, perché effettivamente ci sentivamo un po' sole. Anche perché proveniamo da due paesi abbastanza piccoli dove è difficile sentire che c'è una donna che viaggia da sola. E così è nato Viaggio da Sola Perché. Il titolo fa riferimento alle diverse motivazioni per cui una donna può viaggiare da sola, che cambiano sia da donna a donna ma anche da esperienza a esperienza per la stessa donna. Abbiamo iniziato raccogliendo alcune storie di alcune donne. E poi abbiamo creato un gruppo Facebook che ad oggi conta più di 12.000 ragazze iscritte, molte delle quali attive. Circa un paio di mesi dopo aver creato il gruppo abbiamo aperto il nostro sito in cui abbiamo cominciato a raccogliere le storie, appunto, come ti dicevo prima, di altre donne che viaggiavano da sole, e poi secondo la nostra esperienza a raccontare, insomma, un po' di cose che ci faceva piacere condividere, sia sul lato organizzativo di un viaggio che sul lato emotivo. Scusa, ti interrompo perché questo discorso della condivisione è fondamentale, nel senso che lo scambio comunque di consigli, di opinioni, anche per far svanire un po' quelle preoccupazioni che frenano tante donne che magari vorrebbero fare questa esperienza, però spaventate un po' non la fanno, sicuramente i consigli delle altre sono uno dei motori principali. Allora, a questo proposito ti chiedo, no? Davanti all'idea di viaggiare da sola, una donna appunto si trova davanti delle paure, e noi crediamo che alcune di queste paure siano magari fondate, cioè siano paure legittime, però ci sembra di capire anche un po' guardando i blog come il vostro, le pagine come le vostre, le condivisioni comunque di tante esperienze di donne che hanno viaggiato da sole, che invece ci siano anche tante paure che poi scompaiono nel momento in cui si intraprende questa esperienza. Ce le vuoi un po' raccontare, tu che insomma hai una visione abbastanza ampia rispetto a tutto ciò che è stato condiviso sulla vostra pagina? È vero, ci sono alcune paure fondate e altre non fondate. Le paure fondate in realtà sono un po' quelle che dovrebbero preoccupare un po' tutti quanti, ovvero sto per visitare una zona nuova, un posto che non conosco, mi informo, perché magari ci sono delle aree che non sono consigliabili da visitare, ma così per una donna e così per un uomo, secondo me. La paura assolutamente infondata è quella che si fa una sorta di addizione, ovvero donna che viaggia da sola uguale violenza, uguale sarà sicuramente derubata, uguale è molto più vulnerabile. Questo non è vero, perché tutti noi usciamo di casa per fare qualsiasi commissione, per andare a lavoro, e usciamo da sole per fare queste cose qui, ed è la stessa identica cosa. È logico ed è normale quando si parte da sole di avere più timore, perché sei comunque da sola, non hai nessuno con cui scaricare le tue paure, nessuno sul momento con cui confrontarti, con cui organizzare, però di contro è anche molto bello imparare che non c'era nulla di cui avere paura. E quindi andare un pochino oltre i propri limiti, acquistare fiducia in se stesse, capire quanto si può fare anche da sole, che è molto molto importante. Prima di questa chiacchierata con te, noi abbiamo fatto ascoltare alcuni contributi di nostre ascoltatrici che hanno viaggiato da sole, che viaggiano da sole, e qualcosa un po' è ritornato in alcuni contributi, cioè il fatto che una donna che viaggia da sole in un qualche modo sembra sempre che si debba giustificare, cioè che si deve giustificare ovunque, cioè si deve giustificare a casa, con la propria famiglia, col proprio gruppo di amici, sul perché decida di partire da sola, e spesso si deve giustificare anche nel momento in cui va nel luogo che vuole visitare di fronte a altre persone, magari altri viaggiatori o persone del luogo, che chiedono sempre ma perché? Come se ci dovesse essere una ragione per viaggiare da sole, cioè generalmente una ragione legata a una mancanza del tipo non avevo nessun altro con cui andare, non avevo un compagno o una compagna, non avevo e quindi ho dovuto prendere questa decisione, come se fosse una decisione un po' l'ultima spiaggia, mentre invece la potenza di questa scelta è tutt'altro. È assolutamente vero, bisogna sempre ricordare quando parliamo con chi ci sta intorno e magari non capisce la nostra scelta, che sia per scelta, viaggio solo per scelta, o che sia, vabbè, non ho trovato nessuno che voleva venire con me in quel periodo, ci vado da sola, è una scelta anche questa. Bisogna sempre ricordare che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, cioè siamo noi a fare delle scelte per le nostre vite, chi non ci capisce, va bene lo stesso. Proviamo a spiegare quanto possiamo, se proprio troviamo un muro davanti, non possiamo abbatterlo, se non riusciamo ad abbatterlo, pazienza, partiamo lo stesso. Viaggiando comunque si scopre che non siamo da sole a viaggiare, nel senso che in qualsiasi posto una persona vada per visitarlo, per viverlo, troverà sempre un'altra viaggiatrice in solitaria, un viaggiatore in solitaria. È molto facile, in realtà ti accorgi davvero, sembra di essere da sola quando parti, ma in realtà quando arrivi a destinazione ti rendi conto che ci sono un sacco di persone che viaggiano da sole. Molto spesso nascono anche delle bellissime amicizie, dei bellissimi confronti con queste persone. Puoi anche chiedere a loro qual è la loro esperienza, se hanno avuto la tua stessa esperienza, ovvero ci sono state persone che magari non hanno capito, non hanno compreso. Ed è importante anche imparare dalle esperienze degli altri come reagire quando ci trova davanti appunto da famiglia, amici che non vedono di buon occhio la nostra scelta. se dovessi dare qualche consiglio a una donna che vuole intraprendere un viaggio da sola, che possa essere un viaggio di 3 giorni, ma anche magari un viaggio più lungo, che possa essere un viaggio vicino a casa sua oppure dall'altra parte del mondo, che cosa consiglieresti di fare? Quali sarebbero i consigli base, diciamo, che tu diresti di seguire? Allora, sicuramente raccogliere più informazioni possibile sul luogo che si sta per andare a visitare. Assolutamente, che sia a 2 ore da casa nostra o che sia dall'altra parte del mondo. Rispettarsi, perché il primo viaggio in solitario non deve per forza essere in Asia, ad esempio, ma può essere tranquillamente nella regione vicino alla nostra. Si può tranquillamente anche andare in un posto già visitato, magari con qualcun altro, che quindi è familiare, appunto informarsi, leggere su internet, chiedere opinioni, cercare i mezzi di trasporto, cercare di capire come muoversi, cercare tutte le informazioni più interessanti possibili per fare in modo che il nostro viaggio, insomma, riesca al meglio. Tenere sempre gli occhi aperti, perché se siamo magari da soli in aeroporto non c'è nessuno che ci può guardare lo zaino mentre siamo lì, banalmente. Tenere gli occhi aperti, quando si viaggia si prendono i mezzi pubblici, che siano metro, bus o treni. Fare amicizia è un consiglio che darei, se non si vuole stare completamente da sole, perché magari si può scegliere di fare un viaggio in solitario anche proprio per stare da sole con se stesse, ma di cercare qualcuno con cui si ha un'affinità, si chiacchieri un pomeriggio così, è un consiglio che mi sento di dare, una cosa molto bella che succede in viaggio di solito. Tu hai detto cercare informazioni, questo è un consiglio che anche noi sposiamo assolutamente, mm-hmm. E ti chiedo, sul vostro sito si possono trovare molte informazioni ed è un sito che è un po' diviso per aree tematiche, ci vuoi raccontare un pochino che cosa si può trovare mentre una sta pianificando un viaggio, magari se viene a sbirciare da voi? Noi abbiamo diviso il sito in diverse aree, le aree più grandi sono l'area organizzativa, quindi proprio la praticità di un viaggio, cosa mi porto in valigia, come faccio la valigia, come mi muovo in determinate zone, e poi un'area sulle emotività, quindi su cosa provo mentre viaggio, quali sono le mie emozioni, le mie sensazioni. E poi ci sono tante varie altre aree, come la cucina del mondo, libri, cinema, un po' tutto quello che gira attorno al viaggio. Abbiamo pubblicato molti articoli che riguardano proprio l'organizzazione del viaggio, ovvero come mi muovo quando decido di viaggiare da sola, come faccio a fare le cose che di solito faccio, condivido con qualcun altro quando viaggio, adesso le devo fare da sole. Ci sono alcuni articoli che sono, noi abbiamo chiamate le trilogie, sono delle trilogie che riguardano sia l'emotività che l'organizzazione, in cui tutte noi collaboratrici della redazione e del gruppo Facebook abbiamo risposto a 3 domande per trilogia, ovviamente, dando un po' il nostro punto di vista, raccontando un po' le nostre esperienze, anche i nostri errori, perché ne abbiamo fatto qualcuno, insomma, è sempre importante imparare sia dagli errori che si fanno che gli errori che fanno gli altri. E abbiamo appunto diviso il nostro blog in aree proprio per fare in modo che fosse più facile trovare le informazioni che si stanno cercando, e abbiamo dato anche grande risalto all'emotività, perché spesso si parte, la partenza, ma anche il viaggio in sé ha forte impatto sull'emotività di una persona. Mi viene da dire di una donna in particolare, perché comunque parlando, sentendo noi donne siamo forse un po' più emotive nei confronti del viaggio. Beh, certamente, anche perché siamo anche caricate da una grande tensione che non ci creiamo noi da sole, ma che è tutta una cultura, una società che preme su di noi, anche il semplice fatto, come dicevamo prima, dei nostri contributi, che sembra sempre un dover giustificare qualcosa. Le ascoltatrici ci dicevano, noi chiedono perché viaggiamo da sole, mm-hmm. ma normalmente agli uomini che lo fanno non lo chiedono. Allora, visto che questo vostro materiale è tanto e molto interessante, ti chiediamo quindi come ultima domanda, prima di salutarci, se ci vuoi dare un po' i vostri riferimenti, quindi il titolo del sito, della vostra pagina Facebook e magari un'email se qualcuno vuole scrivervi qualcosa. Certamente, allora il sito è www.viaggiodasolaperché.com. Su Facebook ci trovate come Viaggio da Sola Perché, c'è sia la pagina Facebook in cui promuoviamo i nostri articoli, sia il gruppo Facebook che ha lo stesso nome, Viaggio da Sola Perché. Ci trovate anche su Instagram. E per contattarci, se volete, potete contattarci direttamente da Facebook oppure tramite la sezione contatti che trovate nel sito, dove c'è il nostro form di contatto e le email. Un'altra cosa importante è se ci sono delle donne che vogliono mandarci la loro storia di viaggio in solitaria, c'è nel sito, nella sezione Le storie, la possibilità di mandarci la propria storia seguendo delle istruzioni. E noi le accogliamo tutte quante, le pubblichiamo tutte indifferentemente perché sono tutte uniche e importanti a modo loro. Bene, grazie Dana, noi ti ringraziamo molto. Speriamo con questa intervista e questa puntata di essere riuscita a dare un incentivo maggiore a chi sta pensando di partire ancora lì lì che non ce la fa. Noi ti ringraziamo e ti auguriamo buoni viaggi. Grazie mille a voi, è stato bellissimo. Bene Mari, non so a te, ma a me questa intervista mi ha fatto venire una gran voglia di partire. Sì, e come dicevamo appunto durante l'intervista, partire non significa soltanto andare dall'altra parte del mondo, ma si possono fare cose avventurose anche molto vicine a noi. E a questo proposito volevo cogliere l'occasione per suggerirvi un libro per chi ha voglia di avventura, per le persone a cui piace l'acqua e una dimensione acquatica particolare che io amo tantissimo, quindi quella dei fiumi. Vi consiglio assolutamente questo libro che si intitola Wild Swimming Italia di Michele Tameni, pubblicato da Idea Montagna, Editoria e Alpinismo, un libro che parla dei fiumi, laghi e le cascate e le terme più affascinanti d'Italia. In questo modo potete scoprire se vicino a voi, ma probabilmente sì perché ci sono quasi praticamente in tutte le regioni italiane, dei fiumi balneabili meravigliosi in cui è possibile andare a costo assolutamente zero per immergersi nella natura e rilassarsi anche soltanto per qualche giorno. E quindi con questo mio consiglio di lettura siamo arrivati alla fine, cara Vivi. Sì, e non ci resta che ricordarvi i nostri riferimenti. Cercateci su Facebook come Frequenze Sui Generis e ascoltateci ogni lunedì, come sempre, dalle 14.30 alle 15. Sui 103.1 FM per chi ci ascolta da Bologna e provincia e su www.radiocittafugico.it per chi ci ascolta da ovunque nel mondo.